Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 17:07 minuti, nuovo appuntamento con Focus Economia. Oggi una puntata piena di spunti su cui discutere, su cui pensare che cosa sta succedendo nel nostro paese, come sta andando l'economia delle piccole e delle grandi aziende. Daremo poi uno sguardo ovviamente anche all'estero, perché succedono delle cose interessanti su cui magari anche riflettere. Allora parleremo dell'assemblea di Union Camere, che riunisce tutte le camere di commercio, per avere uno spaccato proprio sulla su quelle che sono le imprese, le nuove imprese, quelle che si iscrivono, e i fallimenti e anche le problematiche che ogni giorno devono affrontare le piccole e medie imprese italiane. Poi nello specifico andremo anche a vedere che cosa è successo all'assemblea di Federlegno Arredo, quindi un settore in particolare. Ci sposteremo in Francia, perché il governo francese ha siglato un accordo con il settore della ristorazione, in particolare sull'IVA, e capiremo che cosa significa questo accordo e se è estensibile anche ad altri settori e ipoteticamente se potrebbe anche essere chissà adottato in altri paesi. Resteremo in Francia per parlare di Airbus, perché secondo il londinese Times sarebbero trapelate delle indiscrezioni sull'indagine condotta dall'agenzia francese sul disastro aereo dell'Air France. Protagonista un velivolo Airbus, un'inchiesta che andrebbe tutta a scapito di Airbus, che rischierebbe di bloccare tutta la flotta Airbus. E poi parleremo dei dati auto, perché alle 18 escono i dati, capiremo anche che cosa sta succedendo per la Fiat, se questi dati sono positivi o negativi, insomma come va tutto il settore, che è sicuramente un indicatore molto importante per capire come si sta muovendo tutta l'economia. 349-238-6666 per i vostri sms. Prima però di cominciare con le nostre notizie in breve, andiamo velocemente a vedere che cosa sta succedendo sui mercati. Un avvio positivo questa mattina per l'Europa, che poi ha trovato nuova forza, nuovo vigore con l'apertura di Wall Street, un'apertura positiva. In questo momento il Dow Jones guadagna l'1,33%, il Nasdaq l'1,33%, lo Standard & Poor's è in progresso dell'1,13%. Che cosa succede in Europa? Parigi guadagna il 2,36%, Francoforte l'1,95%, Londra guadagna il 2,02%. A Milano il FTSE Italia All Share guadagna l'1,88%, il FTSE MIB l'1,95%. Bene l'euro su dollaro, in questo momento il cambio è 1,41,39 sul biglietto verde. E adesso però è il momento delle nostre notizie in breve. Partiamo come sempre dal petrolio. Nei primi scambi a New York il greggio ha guadagnato il 2,4% a $71,56 al barile. Scende anche oggi l'Euribor con scadenza trimestrale, ricordiamo il tasso che le banche applicano fra loro per i prestiti in euro a 3 mesi, anche il tasso che generalmente viene applicato ai mutui è sceso oggi dall'1,10% all'1,09%, segnando un nuovo minimo storico. Economia internazionale, parliamo di posti di lavoro. Dow Chemical, il maggior produttore chimico statunitense, taglierà 2.500 posti di lavoro nell'ambito della propria riorganizzazione. Questo è quanto ha riportato l'emittente televisiva CNBC. Calano invece i licenziamenti programmati in generale dalle aziende statunitensi. A giugno si è registrata una flessione del 9% a 74.393 da quasi 82.000 di giugno 2008. Questo è quanto emerge dal sondaggio Challenger, che evidenzia che il mercato si sta stabilizzando e che la fase più acuta della recessione è stata superata. Restiamo negli Stati Uniti, perché l'indice ISM, che monitora l'attività del settore manifatturiero, a giugno è salito a quota 44,8 da 42,8 di maggio. Gli analisti si aspettavano un rialzo a 44,9. Parliamo del settore aereo, lo dicevamo in apertura di programma perché sarà uno dei temi che poi approfondiremo nel corso di Focus. La compagnia Airbus potrebbe essere costretta a lasciare a terra la sua intera flotta a lungo raggio in seguito alla diffusione domani del primo resoconto da parte francese sulle cause del disastro aereo in cui il 31 maggio scorso si è inabissato al largo del Brasile un Airbus 330 di Air France con, lo ricorderete, 228 persone a bordo. Stando a quanto riferisce oggi il Times di Londra, il rapporto indicherà come cause dell'incidente il malfunzionamento dei rilevatori di velocità del sistema elettrico. Pronta la risposta di Airbus, anticipare il responso dell'inchiesta e fare pura speculazione, in ogni caso la decisione, quindi la decisione di lasciare poi a terra l'intera flotta, può essere presa solo dalle autorità dell'aviazione come l'EASA. Questa è la replica appunto comunicata da Airbus all'ANSA riguardo proprio all'eventuale disposizione del blocco a terra di tutta la flotta a lungo raggio. E visto che parliamo di settore aereo, parliamo anche di Alitalia e dei ritardi. Ogni giorno ci sono tra i 140 e i 150 aerei che partono in ritardo. Questo è quanto ha ammesso il presidente della compagnia Roberto Colaninno, ricordando in occasione di un suo intervento a un convegno sul Made in Italy che la compagnia di bandiera ha ancora difficoltà, chiamiamole così, sulla puntualità, sulla quale però, ha detto Colaninno, ci stiamo impegnando. Da lunedì, ad esempio, i sistemi di Air One e Alitalia sono integrati. Colaninno ha invece annunciato che è stato drasticamente ridotto il tasso di cancellazione dei voli, che su 700 voli al giorno è sceso a meno di 7 aerei. Parliamo di Fiat, intanto ricordiamo appunto che questa sera alle 18 verranno diffusi i dati sulle immatricolazioni italiane di giugno e poi alcune dichiarazioni dell'amministratore delegato Sergio Marchionne. La Fiat non ha bisogno di liquidità e nel secondo trimestre ha raggiunto gli obiettivi prefissati in termini di utile operativo. Questo è quanto ha affermato Marchionne in un'intervista diffusa dall'agenzia Bloomberg. Ancora, il gruppo Chrysler ha rallentato il ritmo con il quale utilizza la liquidità dopo il 10 giugno, giorno dell'accordo con la Fiat, questo è quanto ha riferito Marchionne. Stiamo ancora bruciando contanti, ma a un ritmo di gran lunga più lento, ha spiegato l'amministratore delegato, aggiungendo che il problema è quanto velocemente potremo arrestare l'emorragia. Questa è la priorità numero uno. Marchionne ha parlato anche in via indiretta di Opel e dello spin-off dell'auto. L'eventualità di uno scorporo di Fiat Auto con relativa quotazione in borsa per il momento è sospesa, dal momento che non è andata in porto l'offerta per Opel, così ha spiegato Marchionne. Sulla vicenda Opel è intervenuto anche il ministro Scajola, il quale ha detto: non abbiamo perso la speranza di vedere qualcosa su Opel magari a fine anno. Così il ministro dello sviluppo economico è ritornato sulle trattative riaperte per l'acquisto di Opel. Lo ha fatto parlando ad un convegno sul Made in Italy organizzato dal Comitato Leonardo, ricordando come 6 mesi fa illustri centri di ricerca ci avrebbero detto che la Chrysler avrebbe comprato la Fiat. E ancora Scajola: i dati sull'andamento della crisi economica forniti quotidianamente possono fare danno allo sviluppo del nostro paese, per questo sarebbe meglio che l'Istat decidesse di dare le statistiche ogni 3 mesi e tutte insieme, sarebbe meglio che fare lo spezzatino. Questo è quanto ha dichiarato il ministro per lo sviluppo economico. Andiamo in Sicilia perché peggiorano i conti della regione. Secondo la Corte dei Conti, il deficit regionale ha superato i 5 miliardi di euro con un incremento dell'83% sul 2007. Tra i principali fattori di spreco, la Corte ha individuato l'organizzazione del lavoro della regione. I dipendenti sono 13.896, di questi oltre 2.000 sono dirigenti. In pratica vuol dire che c'è un dirigente ogni 5 contro una media italiana di un dirigente ogni 50 dipendenti. Adesso è venuto il momento di affrontare il nostro primo tema di approfondimento. Andiamo a vedere che cosa è successo in alcune assemblee, partendo proprio da quella di Unioncamere. Allora, Allora, lo dicevamo in apertura, Union Camere riunisce tutte le camere di commercio italiane e ovviamente riesce a dare una fotografia molto precisa su quelle che sono le aziende, le nuove aziende che si iscrivono, quelle che invece falliscono. Diciamo che il dato, l'ultimo dato, è un dato positivo e quindi c'è una certa soddisfazione. Ci sono però ancora molti problemi e tra questi il problema forse principe e principale di tutte le aziende, di tutte le piccole e medie imprese, non tanto delle grandi, è quello del credito. C'è una restrizione del credito che penalizza moltissimo e mette in grande difficoltà le nostre aziende. Noi siamo collegati telefonicamente con il presidente di Union Camere, Ferruccio Dardanello, che saluto. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Allora presidente, quest'oggi assemblea di Union Camere, cominciamo da un qualcosa di positivo. Le imprese aumentano, tra coloro che si iscrivono e i fallimenti comunque il saldo è positivo negli ultimi mesi. Questo è un dato anche un po' sorprendente e credo che questo dato che abbiamo dato oggi è in controtendenza di quello che è stato il procedere di questi mesi o di questi ultimi semestri per quanto riguarda le nuove imprese. Si registrava in continuazione una moria di imprese che ancora oggi comunque hanno le difficoltà di sempre, anzi probabilmente l'autunno ci riserverà ulteriori difficoltà, ma c'è questo dato nuovo che da leggere in positivo, che nell'ultimo trimestre il saldo delle imprese è cresciuto di 30.000, quindi vuol dire che c'è nuovamente fiducia, c'è nuovamente entusiasmo. Penso che siano i giovani che stanno credendo che l'imprenditoria è ancora un settore nel quale credere, nel quale investire, per dare quindi valore a questo Made in Italy, per dare valore ancora all'imprenditoria italiana così diffusa, così capillare in ogni ambito del nostro territorio. Presidente, quali le tipologie delle imprese che nascono, quelle che riescono poi a farcela e soprattutto dove vengono, dove si dislocano? Dove vengono mi sarà difficile in qualche modo andarle ad individuare, certo. Ma io credo che a Macchiatogio nel paese vi sia questa fiammella di nuovo di entusiasmo che in qualche modo può essere nato in questi periodi. Ma in quali settori? Ma io credo che il settore del terziario è quello che in questo momento sta più trovando all'interno della nostra società motivo e possibilità di intraprendere. Questa società italiana che trova proprio in questo settore, che è così indispensabile, così strategico, anche per valorizzare questo patrimonio inesauribile, incredibile che è il nostro territorio, che fortunatamente non può essere né contraffatto né riciclato né delocalizzato in ogni ambito mondiale, ecco, valorizzare quello che noi abbiamo e questo patrimonio inesauribile che il terziario italiano può mettere a disposizione dei suoi cittadini, ma può mettere a disposizione del mondo, credo che sia un valore che probabilmente tanti altri paesi, tanti altri territori non hanno. Quindi la nostra competitività sotto questo profilo potrebbe rimanere alta. Presidente, non ci nascondiamo comunque che c'è un costante, diciamo un sostanziale numero di fallimenti e che comunque ci sono dei problemi, dei grossi problemi a cui ancora tutt'oggi devono rispondere, con cui devono confrontarsi le imprese. Allora io le chiedo, sul fronte ad esempio della burocrazia, ci sono stati dei passi avanti e quali sono ancora gli scogli maggiori da superare? Ma proprio l'altro ieri un comunicato che noi abbiamo fatto, abbiamo in qualche modo segnalato come il costo della burocrazia è ancora uno dei grandi handicap per il procedere positivo delle nostre imprese. Dai dati che noi abbiamo rilevato si evinceva che ogni impresa circa 1.000 euro al mese di costi aggiuntivi legati proprio alla burocrazia, che è una caratteristica purtroppo del nostro paese. Ma in questo ambito io credo che proprio il sistema camerale sia un esempio che sta in qualche modo facendo scuola e che troverà probabilmente nei prossimi mesi, con la condivisione anche delle istituzioni, in modo particolare del governo, la possibilità di dare, grazie alle nuove tecnologie di cui noi siamo fruitori straordinari in questi ultimi semestri, in questi ultimi anni, la possibilità di rendere meno onerosa, meno difficile, dico meno burocratica, la quotidianità dei nostri quasi 6 milioni di imprenditori. Pensate che è un numero straordinario, il numero più importante che c'è all'interno di questa Europa. Questa Europa poi tra l'altro che proprio per la sburocratizzazione con lo Small Business Act ha dato un'indicazione precisa a tutta l'Europa, ma in modo particolare anche al nostro paese, che di piccole imprese è veramente la fucina più grande che c'è all'interno dell'Europa stessa. Veniamo a un altro tema, direi anche un nodo veramente complicato da sciogliere in questo momento, che è quello della stretta creditizia, Presidente. Beh, questo è un altro tema alla quale proprio le Camere di Commercio hanno dato delle risposte in questa annualità, io direi uniche, nell'ambito anche della quantità delle risorse messe a disposizione. Noi siamo presenti in 300 consorzi fidi, che proprio oggi lo strumento che pare da qualcuno è solo stato scoperto recentemente, ma noi da anni foraggiamo, sosteniamo, sollecitiamo la nascita di questi strumenti, che sono gli unici che sono serviti proprio a far crescere, io dico, questa piccola imprenditoria italiana in modo particolare, e non solo la piccola, anche la grande, e alla quale, pensi, noi abbiamo già dedicato in questi primi mesi del 2009 oltre 80 milioni di euro a sostegno proprio degli investimenti, della voglia di fare, dell'entusiasmo, io dico della fiducia che la piccola e la grande e la media imprenditoria mettono a disposizione del Paese. In questo ambito ci auguriamo poi che però il sistema bancario non stia soltanto a guardare, ci sia vicino, ci sia al fianco, sappia mettere a disposizione anche delle risorse come stanno facendo gli altri Paesi europei a tassi adeguati a quelli che sono i tassi ufficiali di sconto, questi tassi che in qualche modo caratterizzano un po' il costo del denaro, e poi che non si applichino più dei rating soltanto legati ai bilanci, ma legati anche in modo particolare alle idee, alle progettualità, alla voglia di fare della nostra imprenditoria. Se questo passaggio verrebbe colto, io credo che probabilmente faciliteremmo ulteriore lo sviluppo e la crescita della nostra economia, ma dico tutto sommato del nostro Paese. Presidente, l'ultima domanda è quella relativa all'occupazione. È vero, abbiamo cominciato con il piede giusto parlando di queste circa 30.000 imprese che danno l'attivo un po' tra fallimenti e iscrizioni, c'è da dire che però andiamo forse incontro ad un autunno piuttosto caldo. E questo purtroppo anche lo paventavamo nelle considerazioni che facevamo prima. L'occupazione in questo momento è una delle negatività che sono più marcate, abbiamo visto che proprio tutti i settori economici in qualche modo hanno dei meno all'interno del mondo occupazionale, forse soltanto l'agricoltura in questo momento tiene leggermente di più. E certo che se il processo di crescita e sviluppo non darà una svolta, quello delle 30.000 imprese che dicevo prima era un segnale, ma rimane soltanto quello, anzi, ma c'è la preoccupazione che nell'autunno probabilmente il motore non sarà ancora così caldo da poter offrire delle performance che noi tutti ci auspichiamo. E se questo non avverrà, come probabilmente non avverrà, probabilmente ci sarà un autunno dove dovremo ancora pedalare in salita, ecco, affrontare in qualche modo le difficoltà che ci sono in qualche modo all'orizzonte e che già abbiamo vissuto in questi ultimi semestri. Però io credo che la capacità italica di dare delle risposte, di rimboccarsi le maniche, come ha saputo fare da sempre, anche nelle difficoltà, ci possa mettere in condizione di riprendere quel cammino che serve per lo sviluppo del nostro futuro, ma della nostra economia, ma io credo della nostra intera società. Grazie a Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere, a lui una buona serata e un buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Le difficoltà delle aziende sono emerse anche dal rapporto della Camera di Commercio di Milano che è stato presentato ieri. Nello specifico, nel capoluogo lombardo la situazione è migliore che altrove, però la produzione dell'area è scesa del 10% circa nel primo trimestre del 2009 e i consumi sono calati del 6% quasi. Per il 2009, quindi per l'anno in corso, ci si attende un calo della ricchezza prodotta di quasi 4 miliardi e il taglio di oltre 15.000 posti di lavoro. Molte aziende si apprestano infatti a chiudere per l'estate senza poi avere la certezza di poter riaprire a settembre. Lo dicevamo, oggi si è svolta anche l'assemblea di Federlegno Arredo, quindi un settore in particolare segna il passo nei primi mesi del 2009, il settore complice la crisi. L'export quindi del settore dell'arredamento dopo un 2008 che tutto sommato era stato ancora un buon anno. Il quadro è stato tracciato dal presidente di Federlegno Arredo, Rosario Messina, che in occasione dell'assemblea ha sottolineato come per le esportazioni fino ad ora abbiamo assistito ad una caduta del 40%, mentre appunto il mercato interno ha registrato una flessione del 15%, mostrando quindi segnali di miglioramento rispetto a quello che era stato il dato dello scorso anno. Messina è stato intervistato da Maria Chiara Grandis e al suo microfono il presidente ha poi spiegato che cosa serve al settore in questo momento per superare la crisi. Per ricostruire la ripresa principalmente chiediamo un rilancio dei consumi affinché le nostre aziende ritornino a produrre. Sono un anno, non abbiamo mai chiesto contributi per le imprese, ma bensì per le famiglie, per il consumatore finale. Anche perché il contributo ai mobili, come avevamo già predetto, non ha sortito nessun effetto per un fatto molto semplice. Perché innanzitutto era vincolato alla ristrutturazione, era limitato a 2.000 euro su 10.000, l'arredamento più economico che si possa fare in una famiglia sono almeno 25-30.000 euro, e poi addirittura diluito in 5 anni, mentre se io voglio vado in un concessionario e la stessa famiglia compra 3 macchine e il contributo viene scontato immediatamente. Lei parlava di ambiente, di lotta alla contraffazione, di attenzione al legno come materia prima, sono questi i vostri ingredienti per uscire anche dalla crisi? Anche perché sostanzialmente oggi da un lato bisogna fare innovazione sistematicamente, a maggior ragione in questo momento, perché con quella che io chiamo questa crisi, la terza guerra mondiale, cambia il concetto di consumi e il concetto di utilizzo anche dei prodotti, prodotto casa, prodotto arredamento, per cui sull'ecologia noi siamo stati i primi. Quando il Giappone non voleva la formaldeide, noi l'avevamo applicata 2 anni prima, cui noi siamo sempre stati molto attenti all'ambiente di lavoro e al rispetto delle normative, perché è uno dei primi elementi per fare vincente l'azienda italiana rispetto all'azienda di tutto il resto del mondo. Ecco perché noi comunque con la Cina vinciamo, non solo per problema di livello di prodotto, ma perché noi abbiamo dei prodotti fatti secondo una normativa che rispetta tutti i parametri di questo mondo. Competiamo con un paese che di regole non ne ha nessuna, né sull'ambiente di lavoro, né sui materiali, né sulle ore, neanche sull'età lavorabile delle persone. Per cui noi siamo di fronte a qualcuno che gioca senza un abito che controlla l'applicazione delle regole. Non abbiamo mai fatto richieste protezionistiche, questo sì. All'assemblea di Federlegno Arredo era presente anche il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, che, intervistato da Maria Chiara Grandis, ha invitato gli imprenditori a non adattarsi alla crisi. Adattarsi alla crisi significa superare la crisi, ma non fare un passo avanti. Proprio l'adattamento finisce per essere un ostacolo alla ripresa, perché tu ti sei adattato a quella crisi, ti ci sei messo dentro, hai trovato la posizione giusta, come quando ti fa male la schiena, trovi la posizione giusta, poi dici che mi rimuovo, sto qui, non mi fermo. E questa è la situazione attuale, cioè un adattamento un po' statico, ci vorrebbe un pizzico in più. Gli americani, i biologi, usano un termine che noi italiani non sappiamo neppure tradurre, che è exaptation, dove l'aptation, cioè l'adattamento, parva sid apta mi, è piccola ma ci sto bene dentro, l'aptation non basta più, ci vuole un reagente chimico esterno che faccia trasformazione. Ecco, in Italia quello che manca è quell'ex prima di aptation. Può essere tante cose naturalmente, può essere il ritrovamento, l'apertura di nuovi mercati, può essere quello di trovare una catena di consumi che non sia consumata come quella del telefonino. Noi sono 15 anni che campiamo sul cellulare, di nuovo non c'è nulla. Quindi le famiglie perché devono comprare cose vecchie, vogliono cose nuove? Ci vuole un qualche cosa che modifichi il tran tran, questo è il punto. Chi lo saprà fare farà un sacco di soldi. Le 17:35, 46 secondi, continuiamo il nostro viaggio nelle assemblee per raccontarvi un po' uno spaccato di alcuni settori che ci danno un po' la dimensione della crisi e del momento economico che stiamo attraversando. Questa mattina si è svolta anche l'assemblea dell'UPA, che è appunto la il settore della pubblicità, che rappresenta il settore della pubblicità, utenti, pubblicità, associati, gli investimenti delle aziende italiane in pubblicità sono calati del 18% nel primo semestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008, e questa è la prima flessione a due cifre del settore dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il dato appunto è stato reso noto questa mattina, è un dato che però va un po' analizzato, perché così preso un po' nudo e crudo non racconta tutta la verità. Poco fa abbiamo raggiunto il presidente Lorenzo Sassoli De Bianchi, il presidente dell'UPA, sentiamo quanto ci ha detto. È esattamente così, è un momento difficile, complicato, in cui prevale il corto respiro e l'incertezza della situazione sta di fatto frenando gli investimenti. È una situazione senza precedenti da quando, dal dopoguerra. Presidente, però per la fine dell'anno il dato dovrebbe essere migliore. Noi prevediamo un miglioramento del dato ad arrivare almeno 12%, quindi sempre un calo due cifre, perché la seconda parte dell'anno scorso era già critica, nel senso che erano già apparsi i primi segnali recessivi, e quindi paragonandoci ad un periodo più debole dell'anno scorso riteniamo che il meno 18 si possa ridimensionare ad un meno 12. È comunque una situazione, come dire, a doppia velocità, nel senso che ci sono una parte consistente di imprese che hanno confermato o incrementato gli investimenti a fronte di un'altra parte che è leggermente più consistente, che hanno frenato. È esattamente così, e questo naturalmente dipende dai settori in cui le aziende, le imprese operano. Ci sono settori come la finanza, come le automobili, come i beni durevoli, mi riferisco ai frigoriferi piuttosto che ai condizionatori d'aria, che stanno risentendo pesantemente della crisi in termini di consumi e quindi riducono significativamente i loro investimenti. Vi sono settori invece come le telecomunicazioni, piuttosto che il largo consumo, l'alimentare o anche la cura della persona, che risentono meno della crisi e che quindi tengono sugli investimenti, nella consapevolezza che chi investe in pubblicità in questa fase difficile e uscirà prima e più forte dalla crisi, perché oggi la pubblicità in un certo senso vale il doppio. Senta Presidente, ma per quanto riguarda il costo degli spazi pubblicitari in generale, quindi parlo della TV ma anche della carta stampata, della radio, questo è un prezzo che si è ridotto? Voi avete avvertito una riduzione oppure si mantiene sempre costante? Guardi, noi come associazione non possiamo fare rilevazioni di questo tipo perché l'antitrust ce lo impedisce, perché ovviamente questo vorrebbe dire divulgare e confrontare informazioni sensibili tra le aziende. È evidente che nel momento in cui c'è più offerta rispetto alla domanda, che una serie di offerte interessanti per quello che riguarda i costi della pubblicità sul mercato ci siano. Ecco. Comunque, anche secondo voi il 2010 sarà un momento, come dire, quasi di svolta, insomma? Beh, noi pensiamo, ci aspettiamo una reazione nel 2010 da parte degli investitori, perché è in atto un forte ripensamento all'interno delle aziende, con una ottimizzazione dei costi, con un affinamento di quello che sono i profili dei consumatori che in qualche maniera si vogliono raggiungere, e quindi ci aspettiamo un ritorno all'investimento di segno positivo, anche perché a noi imprenditori i segni negativi non piacciono. Per tornare ai media, Presidente, l'ultima domanda che volevo farle è la seguente, anche se la TV la fa sempre un po' da padrona, però chi è che in questo momento sta riuscendo meglio? Noi sappiamo da informazioni nostre, ovviamente perché è il nostro media, che la radio va abbastanza bene per quanto riguarda la pubblicità. Sì, oggi chi risente più pesantemente della crisi è l'editoria, in particolare la carta stampata, perché la crisi ha aggravato una situazione che era già critica, resa critica dalla evoluzione tecnologica, cioè dalla nascita di internet, per parlare chiaro. E quindi i contenuti, molti contenuti editoriali si stanno spostando sulla rete. E quindi da un lato la crescita di internet come mezzo sta penalizzando la carta stampata, ma è altrettanto vero che molti editori di carta stampata oggi sono anche editori su internet, quindi c'è una compensazione. La televisione rimane la grande ancora mediatica della famiglia italiana e quindi diciamo si difende meglio di altri per quello che riguarda gli investimenti pubblicitari, ma anche la radio, mezzo molto interessante perché estremamente flessibile, no? È un mezzo che accompagna le persone nel corso della giornata, è un mezzo che sta subendo una penalizzazione molto inferiore rispetto al mercato. Fin qui il settore pubblicità raccontato da Lupa, gli utenti pubblicità associati. Adesso è venuto il momento di andare a vedere che cosa è successo oggi sui mercati. Lo facciamo quest'oggi in compagnia della collega di Radiocor, Livia Zancanera. Buonasera Livia. Buonasera. Allora, andiamo subito a vedere intanto qual è la situazione. Il Dow Jones guadagna l'1,20%, il Nasdaq l'1,23%, lo Standard & Poor's è in progresso di poco più di un punto percentuale. Una giornata davvero molto positiva per l'Europa, Parigi più 2,44%, Francoforte in progresso di 2 punti, Londra poco meno di 2 punti, il FTSE Italia All Share più 1,92%, il FTSE MIB più 1,99%. Livia, ancora bene le banche anche oggi? Sì, allora è continuata quindi anche oggi la buona intonazione delle banche che a livello europeo hanno guadagnato l'1,4% circa, trainate anche dal balzo della tedesca Commerzbank che segna più 19%. Per quanto riguarda Milano, allora la migliore è stata Intesa San Paolo che ha guadagnato il 3,27%. Premiata dall'upgrade di Goldman Sachs che ha alzato il giudizio sul titolo da vendere a neutrale. È andato bene ancora il Banco Popolare che ha guadagnato il 2,44% e secondo gli analisti le azioni hanno beneficiato ancora dell'incremento di giudizio arrivato ieri da parte della banca d'affari HSBC che ha alzato appunto il giudizio sull'intero comparto bancario. Oggi inoltre per quanto riguarda il Banco Popolare bisogna ricordare che scade l'offerta pubblica d'acquisto totalitaria lanciata appunto dal banco sulla partecipata Banca Italease. A Milano è stata debole, particolarmente debole solo il Banco Popolare, la Banca Popolare di Milano che ha guadagnato un più 0,35%, mentre è andata bene anche Unicredit che ha segnato un più 1,8%. Allora, dicendo intanto che sono praticamente quasi tutti i titoli che oggi hanno guadagnato, in rosso solo Snam, Rete Gas e Terna, andiamo a vedere cosa hanno fatto anche i petroliferi. In generale sono andati bene, soprattutto Eni, oggi anche il rialzo del prezzo del petrolio ha sicuramente favorito. Sì, allora il comparto energetico bisogna dire che oggi insieme a quello delle materie prime è stato la principale causa del rialzo dei listini, quindi il comparto energetico ha guadagnato a livello europeo il 2,11% appunto sulla scia dell'ascesa dei prezzi del petrolio che si sono mantenuti sopra i $71 al barile anche dopo la pubblicazione degli stocks americani. Alla vigilia invece dobbiamo ricordare che il greggio aveva mostrato a New York un calo di $1,6 a $69,8 al barile, quindi allora Eni è stato il miglior titolo del comparto petrolifero a Piazza Affari, ha guadagnato il 2,79%, sovraperformando quindi i concorrenti, e dobbiamo dire che è di ieri l'annuncio che l'Eni sarà tra i pretendenti per i campi petroliferi iracheni di Zubair, in quanto appunto ieri il Ministero del Petrolio ha reso noto di aver ricevuto proposte da 4 consorzi per i 4 miliardi di barili. Torniamo velocemente sui mercati con Livia Zancaner. Livia, oggi bene anche il comparto dei cementiferi. Sì, allora i titoli del settore cemento infatti sono stati ben intonati per tutta la seduta a Piazza Affari con il comparto costruzioni in rialzo a livello europeo. Sul paniere principale quindi Buzzi Unicem ha guadagnato il 2,38% e ha beneficiato del giudizio di di Banca Leonardo. La banca d'affari ha infatti migliorato il rating sul titolo da vendere a underweight, cioè sottopesare, in seguito al recente calo delle azioni che dal 3 al 23 giugno hanno perso il 12,4% per poi iniziare a risalire. Dal 23 giugno le azioni hanno guadagnato più o meno il 7%. Per lo stesso motivo gli analisti hanno incrementato a vendere il giudizio sulle azioni risparmio e hanno confermato i prezzi obiettivo sia sull'ordinario sia sul risparmio. Gli analisti hanno inoltre dato giudizio underweight anche su Italcementi e vendere su Cementir. Allora, bene le banche, bene i petroliferi, bene i cementiferi, detto ciò il miglior titolo è stato Telecom Italia. Sì, allora Telecom Italia ha guadagnato il 3,55% beneficiando da una parte della buona intonazione del settore telecomunicazioni, che è stato premiato dall'upgrade da parte delle Credit Suisse, e dall'altra parte da giudizio positivo anche di Equitas SIM. Allora, il Credit Suisse ha alzato il giudizio sul comparto europeo delle TLC da market weight a overweight, ritenendo che le telecomunicazioni nel 2009 rappresentano il comparto con la più alta generazione di cassa e con i maggiori dividendi. Per quanto riguarda invece il report di Equitasim, allora la banca d'affari ha confermato giudizio comprare su Telecom Italia con un target a 1,18 euro, e ha migliorato la visibilità quindi di Telecom Italia all'interno del portafoglio, considerando che da inizio anno il calo registrato dalle azioni è stato deciso circa almeno 12%. Secondo gli analisti appunto di Equita, il management di Telecom ha già anticipato i miglioramenti del business nel secondo trimestre 2009 in Italia e Brasile, e per quanto riguarda l'indebitamento il tema sembra comunque meno rilevante, mentre il dividendo resta comunque attraente per il mercato. Livia, l'ottomatica ha chiuso piuttosto debole, un rialzo dello 0,07%, è già da qualche seduta che il titolo risente un po', che cosa sta succedendo? Sì, allora il titolo è in calo dalla chiusura di giovedì scorso, data da cui più o meno le azioni hanno perso il poco meno del 12%. Allora, il motivo è che venerdì è stato approvato un decreto fiscale da parte del governo per avviare una nuova gara per la concessione del Gratta e Vinci, che fino adesso invece era stata affidata in esclusiva al consorzio lotterie, che è controllata dall'ottomatica. Come conseguenza, inoltre, gli analisti di Chevro nei giorni scorsi hanno tagliato la raccomandazione sulle azioni dell'ottomatica underperform ad outperform, e quindi il titolo sta continuando a risentire sia del downgrade sia della decisione del governo. Andamento positivo anche per Fiat, nonostante il fatto che l'amministratore delegato Marchionne abbia frenato sullo spin-off dell'auto. Sì, Fiat ha chiuso in rialzo dell'1,89%, premiata sicuramente anche dal buon andamento dell'auto, che a livello europeo ha guadagnato il 2,3%. Allora, oggi il numero uno dell'Ingotto, Sergio Marchionne, in un'intervista ha spiegato che per ora il progetto di spin-off dell'attività legata all'auto è fermo. Allora, Marchionne infatti ha detto che Fiat deve avere un piano industriale chiaro per realizzare lo spin-off, e che Opel sarebbe stata un'opportunità reale che avrebbe consentito appunto di produrre 6 milioni di veicoli, ma che ancora comunque Fiat non è arrivata a quel punto. In ogni caso, Marchionne ha parlato di miglioramenti dei conti per la casa americana Chrysler, e in merito a Fiat ha dichiarato che la società ha centrato gli obiettivi sui profitti operativi e generazione di cassa nel secondo trimestre. RCS, anche qui c'entra in qualche modo Banca Leonardo. Sì, allora RCS infatti dopo una buona intonazione per tutta la seduta ha chiuso in rialzo del 6,3%. Allora, il Banca Leonardo ha alzato il giudizio sul titolo da sell a underweight, e bisogna dire che oggi i titoli media sono stati sotto i riflettori anche per quanto riguarda appunto, come si diceva prima, la raccolta pubblicitaria, in quanto per fine anno è previsto un calo medio del 12%, ma dal 2010 ci si attende una reazione. Per quanto riguarda Mediaset e Mondadori, allora sono stati sotto i riflettori anche questi due titoli, in quanto per quanto riguarda Mediaset questa sera ci sarà la presentazione dei palinsesti per l'autunno 2009 e secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore di oggi, appunto 21 Partners, che è la società guidata da Alessandro Benetton, è entrata nel business dei cinema multisala proprio con Mediaset. Per quanto riguarda Mondadori, invece oggi Press D, che del gruppo Mondadori, ha arricchito il portafoglio dei prodotti con la firma per la distribuzione sul territorio nazionale di Avvenire. Livia, l'ultima domanda che volevo farti è relativa poi a una notizia uscita poco prima della chiusura dei listini, uscita in agenzia. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo processuale in seguito alle oscillazioni con ripetuti eccessi di rialzo del titolo AS Roma in borsa, avvenute poi in concomitanza con le voci appunto di interessamento all'acquisto delle quote di proprietà della famiglia Sensi. Si indaga su manipolazione del mercato e aggiotaggio. Questo ha influito in qualche modo sul titolo, che comunque ha chiuso con una flessione di un punto percentuale circa? Sì, allora in realtà la notizia è arrivata pochi minuti fa, quindi appunto come dicevi tu le azioni non ne hanno risentito in maniera particolare, perdendo più o meno l'1,02%. In ogni caso nei giorni, nei mesi scorsi in effetti ci sono stati molti movimenti anomali del titolo, che arrivava a perdere in una seduta oltre l'11% e a guadagnare altrettanto il giorno seguente. E poi infatti oggi è arrivata la notizia della Procura di Roma. Certo, dell'apertura dell'indagine. Grazie a Livia Zancanara, a lei buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Per chi ci chiede, Pirelli Real Estate ancora negativa? Sì, Pirelli Real Estate oggi ha chiuso con una flessione del 7,82%. Adesso lasciamo i mercati, ci trasferiamo in Francia perché andiamo a capire qualcosa di più di questo accordo siglato tra il governo e il settore della ristorazione. Lo facciamo con l'aiuto del collega del Sole 24 Ore, Leonardo Martinelli, che saluto. Buonasera Leonardo. Buonasera. Allora, ci spieghi un po' in che cosa consiste questo accordo. Da oggi una riduzione dell'IVA dal 19,6% al 5,5% negli esercizi di ristorazione. Beh, è un provvedimento preso dal governo per tentare di ridurre i prezzi dei ristoranti. È anche un provvedimento che costerà molto ai contribuenti francesi, la bellezza di 2.350 milioni di euro. Entra in vigore proprio oggi. Il problema, infatti oggi ci sono anche delle polemiche, non solo diciamo entusiasmo qui a Parigi. Il problema, dicevo, è che il provvedimento non prevede direttamente un obbligo per il ristoratore a abbassare i prezzi, che comunque appunto avrà invece il vantaggio alla riduzione dell'IVA, nel senso che è stato diciamo fatto un accordo volontario tra l'associazione di categoria e il governo per appunto ridurre questi prezzi, ma non c'è un obbligo stabilito per legge. E quindi qual è il vantaggio per il cittadino? Beh, il vantaggio è diciamo legato all'onestà del ristoratore, perché il provvedimento è stato preso per ridurre appunto i prezzi, e quindi se il ristoratore è onesto rispetto a questo accordo volontario, i prezzi dovrebbero essere ridotti. Tra l'altro nell'accordo vengono date anche diciamo delle tracce abbastanza precise. Si chiede una riduzione di quasi il 12% diciamo per 7 prodotti di una lista di 10, ad esempio dentro c'è anche il caffè, che il governo chiede di abbassare almeno a Parigi il prezzo medio del caffè, che è di 2,50 euro a 1,7. Quindi il vantaggio però è legato diciamo alla buona volontà in un certo senso del ristoratore a farlo, perché il ristoratore può anche non farlo e comunque avere il vantaggio della riduzione dell'IVA. Ci viene un po' da sorridere pensando alla buona volontà del ristoratore, ma non vogliamo ovviamente sempre pensare male. Siamo riusciti a raccogliere alcune voci francesi, ad esempio il presidente del sindacato dei ristoratori di Diechenet, sentiamolo. Vous avez des tout petits établissements, ce sont des couples qui travaillent seuls. Bon, Chenet dice alcuni esercizi più piccoli gestiti per esempio da una coppia di persone non hanno magari la possibilità, i mezzi per abbassare l'IVA, altri esercizi invece che non abbasseranno l'IVA perché considerano che sia meglio ad esempio aumentare la qualità, e quindi ognuno a seconda delle sue caratteristiche, delle caratteristiche del proprio esercizio poi deciderà come, come dire, come utilizzare questo provvedimento. Allora sentiamo anche che cosa dice un ristoratore che ha deciso di non abbassare i prezzi del menù ma preferisce puntare ad assumere nuovo personale. Je n'ai pas augmenté mes prix depuis quelques années, mais bon. Questo ristoratore dice non aumento i prezzi ormai da qualche anno, manterrò le stesse tariffe, gli stessi prezzi, preferisco invece come contropartita assumere personale e quindi aumentare il numero del mio personale. Questo ovviamente, Leonardo, già sarebbe un risultato, quindi magari non abbassare i prezzi, però contribuire in un altro modo. Sì, il problema è che non può esserci un controllo oggettivo, non certo. È che il ristoratore ha una riduzione dell'IVA se è presente una certa documentazione che appunto prova che ha assunto un cameriere in più o che ha abbassato effettivamente i prezzi. Questo problema è tutto lì. In effetti l'unica cosa che Christine Lagarde, che è il ministro dell'economia, ha potuto dire è che potranno perseguire quei ristoratori che fanno pubblicità ingannevole, nel senso che hanno distribuito degli adesivi che vanno messi al di fuori dell'esercizio, dove si dice l'IVA si riduce, i prezzi anche, però poi se il ristoratore non l'ha fatto potrà essere perseguito. Il problema però è che l'adesivo uno può metterlo o può non metterlo, quindi certo. È una situazione molto complessa, veramente molto, è una vicenda diciamo un po' surreale. Ecco, forse vuole. Anche un po' confusa attualmente, per cui forse bisognerà aspettare un po' e vedere se ci saranno degli aggiustamenti che porteranno poi concretamente anche dei vantaggi al cliente finale. Grazie a Leonardo Martinelli in collegamento con noi da Parigi. Ritrovati, sono le 18:10, 349-238-6666 per i vostri sms. Riprendiamo il filo del discorso e prima però vorrei nuovamente darvi il quadro definitivo del mercato e dei mercati europei. Allora, Parigi ha guadagnato il 2,44%, Francoforte il 2,01%, Londra ha guadagnato il 2,15%, bene anche Milano, dove il FTSE Italia All Share ha guadagnato l'1,92%, il FTSE MIB l'1,99%. Uno sguardo anche ai listini statunitensi, il Dow Jones guadagna l'1,31%, il Nasdaq l'1,33%, lo Standard & Poor's l'1,14%. Tra poco andremo a capire qualcosa di più della vicenda Airbus e poi parleremo anche della pronuncia, perché si è scatenato un piccolo dibattito su questo tra i vostri sms, e poi dei dati sulle immatricolazioni, sono usciti da pochissimi minuti, sono dati positivi e questo ci fa ben sperare per il futuro. Adesso però ancora qualche notizia in breve. Ripartiamo dal petrolio, perché il greggio ha cancellato i guadagni iniziali a New York portandosi in negativo sotto la soglia dei $70 al barile. A metà seduta circa i futures con consegna ad agosto cedono lo 0,6% a $69,50 al barile. Conferma delle multe per un totale di 1,275 milioni di euro inflitte dall'antitrust a 9 società di vendita di elettricità e gas accusate di pratiche commerciali scorrette. A questa decisione è giunta la prima sezione del TAR del Lazio, che ha respinto i ricorsi proposti per contestare le multe dalle stesse società. Pubblicato il dispositivo, tra un mese circa dovrebbero arrivare anche le motivazioni della sentenza. Le società in questione sono Enel Energia, Eni, Acelec, Trabella Elettricità, AM Energia, ASM Energia e Ambiente, Trenta, Enia Energia, MP Energia, Italcongim Energie. Furono sanzionate lo scorso 3 gennaio perché l'autorità ritenne che avessero attuato pratiche commerciali scorrette nelle modalità di pubblicizzazione dei prezzi praticati nel mercato libero dell'energia e del gas. Ancora l'Euribor è una notizia sempre benvenuta questa, la discesa dell'Euribor con scadenza trimestrale, è sceso oggi dall'1,10% all'1,09% segnando appunto un nuovo minimo storico. E poi ancora qualche notizia di cui abbiamo già parlato nella prima parte di Focus Economia, partendo proprio dall'Assemblea di Unioncamere. Il 20,7% delle imprese segnala difficoltà nell'accesso al credito bancario negli ultimi 6 mesi, più che qualche difficoltà diremmo noi, lo rivela l'indagine del Centro Studi di Unioncamere. Il 43% in verità delle aziende non segnala alcun aggravio, mentre il 36% circa non ha richiesto prestiti, non sappiamo se perché spaventati oppure perché non ne avessero realmente bisogno. Il restante 21% circa lamenta ovviamente degli spread elevati, delle garanzie richieste davvero onerose e in generale una difficoltà proprio di accesso e quindi di ricevere credito per andare avanti. Questo però a fronte del fatto che nel secondo trimestre del 2009 il saldo delle aziende è positivo, ci sono 28.000 nuove aziende, come differenza appunto tra le nuove iscritte e quelle cancellate. E poi ancora nella prima parte del programma abbiamo parlato anche del settore Federlegno Arredo, che segna un pesante calo dell'export, meno 40%, però migliora la domanda interna. Questo ovviamente fa ben sperare, perché il dato dello scorso anno era un meno 25% rispetto relativo alla domanda interna, quindi in questo momento la flessione è sempre negativa, ma comunque è migliorato il dato, meno 15%. Negativa anche la pubblicità del primo semestre 2009, per la prima volta dal dopoguerra una flessione a doppia cifra, meno 18%, si spera di chiudere l'anno però con un meno 12%. E adesso veniamo finalmente alla questione Airbus, cercheremo di capirne qualcosa di più. Lo facciamo in compagnia di Andrea Nativi, direttore della rivista italiana Difesa, che saluto, buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Allora, dottor Nativi, intanto per rispondere a qualcuno dei nostri ascoltatori, io dico Airbus sostanzialmente perché la sede è a Tolosa, in Francia, e quindi dico Airbus. Lei come pronuncia? Io sono più anglofono, quindi dico Airbus. Però immagino che possiamo avere ragione entrambi. Soprattutto perché ha una quota anche di attività inglesi Airbus, ha una buona parte delle attività vengono fatte a Filton, dove per esempio fanno le ali degli aeroplani. In ogni caso comunque Airbus è controllata dal gruppo EADS, e EADS è franco-tedesco-spagnolo. Per cui insomma si potrebbe dire in tanti modi. La sostanza non cambia, dottor Nativi, perché oggi il Times di Londra pubblica sostanzialmente delle anticipazioni, poi dovremo vedere se corrispondono a verità, relative all'inchiesta sul disastro aereo avvenuto lo scorso 31 maggio, in cui si è inabissato al largo del Brasile un Airbus 330 di Air France. Secondo il Times si prospetterebbe un blocco di tutte le attività della flotta a terra di Airbus. Ma mi sembra francamente improbabile, non è mai successo una cosa del genere quando vi sono stati incidenti aerei per i quali non vi era certezza sulle cause. Ricordo per esempio un Boeing, un Jumbo, un 747 da TWA che esplose perché aveva della formazione di gas all'interno dei serbatoi. Siccome non avevano la certezza all'epoca del motivo, non li misero a terra. Adesso mettere a terra la flotta di A330 quando non si sa con certezza per quale motivo sia stato l'incidente mi sembra improbabile. Che ne dica il Times? Poi vedremo domani. Certo, diciamo che intanto secondo il Times il rapporto dell'agenzia francese indicherà come causa dell'incidente il malfunzionamento dei rilevatori di velocità del sistema elettrico. Stiamo parlando delle indiscrezioni del Times di Londra in merito a un rapporto dell'agenzia francese sul disastro dell'Air France avvenuto lo scorso 31 maggio e sì, secondo queste indiscrezioni ci potrebbe essere per Airbus il blocco della flotta. Allora, il dottor Nativi diceva: mi sembra altamente improbabile, intanto dobbiamo dire che quello che verrà detto, verrà fuori domani, sarà solo un'anticipazione di questa inchiesta della BEA, non sarà tutto il resoconto dell'inchiesta. Dottor Nativi, comunque sia, le compagnie stanno continuando a ordinare Airbus. Appunto, e quindi sanno, soprattutto ordinano Airbus A330, ovvero sia esattamente il modello coinvolto nell'incidente. Per cui direi che le compagnie aeree, se avessero un qualche minimo dubbio sulla safety di questo aeroplano, certo non lo acquisterebbero, almeno non adesso, aspetterebbero quantomeno la conclusione dell'inchiesta, il che non è. Purtroppo non credo, tra l'altro, che il rapporto, che sarà un rapporto preliminare, perché non avendo neanche trovato certo. Le tappe nere, perché chissà su che basi possano gli amici del Times arrivare a conclusioni per cui l'ente europeo della sicurezza mette a terra tutti gli aeroplani. Vabbè, staremo a vedere, ma in ogni caso, non avendo una certezza, al massimo prudenzialmente uno può pensare di sostituire i tubi di pitot, cioè queste stramaledette sonde incriminate, sugli aerei, ma è un'operazione che si fa relativamente presto, tra l'altro molte compagnie l'hanno già fatto. Senta, dottor Nativi, ragionando per ipotesi, dicendo che prendendo per buone queste indiscrezioni, il blocco della flotta vorrebbe dire il blocco totale della società? No, vorrebbe dire esclusivamente il modello in questione. Beh, però il danno terra economico sarebbe non indifferente, considerando anche. Dipende da quanto tempo ci mettono a sostituire le sonde, il che non è che uno dice ricostruisco l'aeroplano, no? Capisce che se si tratta di un intervento così limitato, vogliamo esagerare di un po' di giorni, un paio di settimane? Sì. Poi le sonde si cambiano perché è un particolare, tra l'altro esterno al muso del velivolo, non crea particolari problemi, tant'è vero che l'Air France, visto che i suoi equipaggi gliel'avevano chiesto, sì, certo, lo sta già facendo, a prescindere. Lo sta completando molto rapidamente, non ha avuto blocchi di aeroplani. Allora, staremo a vedere che cosa succederà domani e se queste indiscrezioni corrispondono a verità oppure no. Grazie ad Andrea Nativi, direttore della rivista italiana Difesa, a lui buona serata. Buona serata a voi. E noi invece adesso dagli aerei passiamo alle vetture, alle autovetture, i dati delle immatricolazioni di giugno. Saluto e do il benvenuto a Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Buonasera Gianprimo. Buonasera Valeria e ai suoi ascoltatori. Allora, dobbiamo dire che diciamo che ci sono dei dati positivi, possiamo parlare di dati positivi, finalmente alcune volte succede che possiamo parlare di dati positivi. Il mercato dell'auto in Italia ritrova un certo slancio nel mese di giugno e balza del 12,38% a oltre 209.000 unità. Sì, è il primo dato veramente positivo di questo anno per il mercato dell'auto. Vi era stato un piccolissimo incremento in marzo, subito dopo l'adozione degli incentivi, perché erano state ordinate le auto disponibili, soprattutto quelle ecologiche, metano, GPL, quelle comunque sotto 140 grammi di emissioni di CO2 al chilometro. Poi sono stati due mesi sostanzialmente negativi perché c'era una forte richiesta di auto ecologiche, però non c'era disponibilità per pronta consegna. In giugno finalmente queste auto sono arrivate sul mercato e quindi abbiamo questo bel dato, che direi è certamente un fatto molto positivo in questo quadro, in questo anno che anche per l'automobile è stato definito orribile. Però per quanto potrà protrarsi, diciamo, l'effetto positivo dei modelli ecologici, che appunto fino a questo momento hanno avuto qualche difficoltà per una mancanza proprio materiale? Sì, ma direi che dovrebbe continuare per tutto l'anno, perché gli incentivi sono in vigore fino al 31 dicembre, anzi fino al 31 dicembre si possono ordinare auto con incentivi, poi possono essere immatricolate fino al 31 marzo 2008, sì. Quindi questo effetto 2010, questo effetto positivo dovrebbe continuare, noi su questa base abbiamo previsto che il 2009 potrebbe chiudere con intorno a 2 milioni di immatricolazioni, quindi con un calo molto contenuto, intorno al 7% rispetto ai cali che sfioravano il 30% di inizio anno. Certo, ma Gianprimo, il dubbio è un po' questo, che comunque dopo la prima fiammata, avviandoci anche verso un autunno che da più parti viene definito caldo e quindi un autunno difficile, che potrebbe essere difficile sotto molti punti di vista, anche gli incentivi perdano un po' di appeal, perché poi ovviamente ci possono anche essere gli incentivi, ma se io non ho il denaro per acquistare un'automobile, insomma, sostanzialmente non è che dell'incentivo riesco a sfruttare tutte le potenzialità. Questo è indubbiamente vero, però ci sono anche dei dati in controtendenza, ad esempio gli indicatori di fiducia hanno svoltato verso l'alto, tutti gli indicatori dell'ISAE, e quindi questo è un elemento positivo. E poi, quantomeno per quest'anno, ci dovrebbe essere una corsa agli incentivi, come dicevo, scadono il 31 dicembre. E poi c'è un altro fattore che è puramente statistico: il primo semestre 2008 fu molto depresso e quindi è abbastanza facile nel 2009 uguagliare o superare questi risultati. Questo potrebbe consentire di portare su un livello abbastanza buono, intorno ai 2 milioni di immatricolazioni, il bilancio del settore. Però se facciamo riferimento al fatturato delle imprese, cioè delle case automobilistiche e dei concessionari, il calo sarà molto maggiore, perché questo recupero del mercato dell'auto sta avvenendo soprattutto con auto piccole, quindi con certo, auto che hanno un prezzo medio sensibilmente inferiore a quello dell'anno scorso. Veniamo alle questioni più di casa nostra. Tutto sommato dei dati positivi per il gruppo Fiat: la quota a giugno sale al 33,97%, quindi si sfiora il 34%, e c'è anche ovviamente un balzo delle immatricolazioni. Sì, è così, le immatricolazioni crescono del 17% contro il 12% del mercato complessivamente considerato, e direi il dato è positivo per tutti i tre marchi del gruppo, e questo continua quindi il recupero del gruppo Fiat, che di mese in mese guadagna in quota di mercato, sia perché, come in questo caso, cresce più del mercato complessivamente considerato, sia perché quando il mercato è in rosso perde meno, ma complessivamente quindi migliora le sue posizioni con tutti i tre marchi. Ecco, migliora la sua posizione anche in altri paesi europei. Ieri i dati della Francia, qui il gruppo Fiat ha segnato un aumento del 9,2% su anno, la quota di mercato si è attestata a poco più del 4%. E anche qui viene premiata la gamma Fiat, che tra le case automobilistiche mondiali è quella che ha il livello medio di emissioni più basso, quindi vengono in questo modo, in questo periodo, in questa fase, incentivati, o comunque anche le imposte favoriscono le vetture che hanno basse emissioni di CO2, quindi la Fiat ne trae beneficio, questo sia in Francia che in Germania, ma anche su altri mercati. Chi soffre, Gianprimo? Soffrono ancora in molti, perché soffre ancora Opel, ad esempio, che ha perso in giugno il 6,46%, mentre Mercedes, ad esempio, che ha sofferto molto in passato, ha pareggiato. Soffre ancora Volvo, soffre ancora Smart, soffre ancora Mazda. Sto naturalmente vedendo i dati in questo momento. Certo, perché sono usciti da poco, da pochissimi minuti. Quindi, insomma, non si può dire assolutamente con questo dato che siamo fuori dalla crisi, assolutamente. È semplicemente un dato positivo, conseguenza di comportamenti coerenti da parte del governo, che ha affrontato, non in maniera assolutamente tempestiva, ma abbastanza tempestivi, i problemi del settore, e ha saputo dare una spinta alla domanda, che poi naturalmente va a vantaggio di tutta l'economia, non soltanto del settore del... Certo. Gianprimo, anche qui la prova del 9 a settembre? La prova del 9 a settembre, sì, qui c'è un po' una situazione un pochino diversa, perché gli incentivi, appunto, proprio per la scadenza del 31 dicembre continueranno a tirare. E quindi ci sarà comunque una prova del 9 a settembre, però io direi non bisogna troppo criminalizzare questo settembre, perché, come abbiamo già visto, le attese negative, e lo abbiamo visto l'anno scorso, finiscono poi per ripercuotersi negativamente poi sull'economia reale. Quindi se criminalizziamo troppo questo settembre, finiremo per avere un settembre nero. L'effetto psicologico ha sempre la sua parte. Grazie a Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, per essere stato con noi. A lui buon lavoro, buona serata. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio in redazione Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, in regia Filippo Aureggi. Noi ci risentiamo domani.